I numeri, innanzitutto, torna a crescere il numero degli attualmente positivi, siamo poco sopra le 1000 unità, stabile il numero dei morti, circa 600, dati come sappiamo da prendere con estrema cautela. Quelli certi arrivano dalle terapie intensive, ricoveri in calo anche ieri. La Lombardia intanto progetta di ripartire il 4 di maggio sulla base di alcune condizioni indispensabili, tra un attimo ci arriviamo. Il governo fa trapelare stupore, ma come si dice da Palazzo Chigi, fino a ieri eravate per il massimo rigore e ora spingete per ripartire. Ancora una testimonianza di tensione politica crescente dunque, come lo è stato ieri l'andamento dello spread, che ha toccato i 240 punti all'ombra delle divisioni nella maggioranza sull'utilizzo o meno del MES senza condizioni. Sul fronte della cronaca sono almeno una trentina le procure che stanno lavorando sulle case di riposo in tutta Italia e nell'ambito di quella sul Trivulzio è stata perquisita la sede della Lombardia. All'estero anche la Germania valuta una progressiva riapertura delle scuole, così come ha già fatto la Francia, mentre negli Stati Uniti si toccano i 28.000 morti e Trump, sotto attacco, minaccia di sospendere il Congresso. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Sempre con il nostro Bob Marley a farci coraggio in questo periodo per aprire la trasmissione, il nostro inno. Iniziamo questa nuova puntata di 24 Mattino alle 6:31 minuti e 47 secondi di questo giovedì 16 aprile con Peter Bescapè in regia, Laura Vanossi in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. E con voi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci, vi aspetto al 349-238-6666 per i vostri sms, i vostri messaggi su WhatsApp e soprattutto i vostri messaggi WhatsApp audio, la vostra voce, fatemela sentire. Se avete voglia di vederci, come sempre, ci trovate anche su Facebook, siamo in diretta là, eh? La pagina Facebook di 24 Mattino, andate. Dunque, che giornata è? Beh, in parte, insomma, ve l'ho riassunta, come sempre faccio prima, con tutti i caveat che riguardano questi numeri che vengono forniti ogni giorno dalla Protezione Civile, e sui quali si può fare un affidamento relativo anche per i differenti criteri, lo diciamo sempre, che ci sono tra le regioni nel misurare per esempio i contagiati, nel misurare le vittime. Guardate, vi faccio un esempio. La Francia ha diffuso ieri il numero delle vittime ad oggi, sono 17.000, e però la Francia i morti nelle case di riposo li conta, non come l'Italia, li conta, sono 6.000 e loro lo sanno e lo dicono e noi qua questo numero non lo stiamo dando. Io non so, la dico un po' pesante, però io non so come si possano prendere decisioni politiche, il che vuol dire riaprire, non riaprire, chiudere, cosa tenere aperto, senza avere un quadro epidemiologico un filino più preciso. Anche questa storia dei test sierologici, che sono quelli che dovrebbero verificare, lo ricordiamo ancora una volta, l'eventuale immunizzazione al virus, Le regioni stanno andando in ordine sparso, non si capisce esattamente chi parte, quando parte. La Lombardia parte lunedì, il governo vuole partire tra 2-3 settimane, non si sa, la Toscana è già partita, il Veneto anche, il Veneto che ha fatto il doppio dei tamponi della Lombardia, la quale Lombardia dice non riusciamo a farne di più perché non ci sono reagenti, allora come fa il Veneto? Capite che anche qua una confusione mostruosa. La Lombardia, appunto, che è ovviamente la regione più in crisi, più in difficoltà, la quale dice improvvisamente possiamo ripartire, almeno in parte, parzialmente, non si sa esattamente come, sulla base, dice il presidente Fontana, delle 4D. Sentiamo. È la via lombarda alla libertà, un programma per portare alla riapertura delle attività a partire dal prossimo 4 maggio. In altre parole, stiamo progettando la nuova normalità nel segno delle 4D. Distanza tra le persone, dispositivi obbligatori, digitalizzazione con smart working obbligatorio per chi può farlo. E diagnosi, grazie alla ricerca del San Matteo di Parigi. Così dunque il presidente della regione. Come già vi dicevo prima, questa cosa ha generato un po' di stupore, di tensione politica, nuova tensione politica, tensione politica che continua ad esserci naturalmente, perché il governo dice: ma come? Insomma, fino a ieri ci chiedevate il massimo rigore e adesso parlate di ripartenza. Il tutto si mescola in una situazione di veleni e sospetti non solo tra livelli locali e livelli nazionali, ma anche a livello nazionale, con Conte che sospetta che qualcuno lo voglia sostituire, chissà con chi dice Draghi. Adesso circola anche la voce di Vittorio Colao, messo a capo di questa task force per la ripartenza. Ci pare tutto molto confuso, mi pare tutto molto confuso, non so a voi come sembri, però insomma mi pare tutto molto confuso. Non è esattamente di confusione che c'è bisogno in questa fase. Dunque, la questione della ripartenza, cosa abbiamo? Abbiamo il presidente Veneto, appunto, Zaia, che parla di una progressiva apertura totale. Io penso che sia fondamentale fare questo ragionamento oggi, prendere atto che comunque abbiamo chiuso con gradualità questo paese, no? Abbiamo iniziato con la quarantena di Vo e dei 10 comuni dell'Odigiano e per poi arrivare a una progressiva chiusura totale. Adesso dovremo fare una progressiva apertura totale. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala. In molti paesi del mondo e anche europei ci si sta preparando alla ripartenza. Io ovviamente non so quando e come il nostro governo deciderà, ma dobbiamo essere pronti. E essere pronti per me vuol dire mettere a punto i servizi cittadini perché tutto funzioni al meglio e preparare i miei cittadini a tornare al lavoro con una sufficiente tranquillità. Zaia sulle grigliate, sentiamolo. Va. Intanto noi facciamo un grande atto di fiducia nei confronti dei cittadini che si sono comportati benissimo in Veneto fino ad ora. Abbiamo detto, siccome ci sono, l'ho scritto nell'ordinanza, siccome c'è la consuetudine della grigliata del 25 aprile e del 1 maggio, abbiamo detto il picnic, chi lo può fare, se lo fa in giardino piuttosto che nel terrazzo di casa, ma lo fa solo limitatamente al nucleo familiare residente. Oh sì. Sì, ha ragione l'ascoltatore, dice quando parla Zaia sembra così il microfono del karaoke. Presidente Zaia o qualcuno dello staff, se siete in ascolto, sistemate questa cosa perché lo mandiamo in onda tutte le mattine e tutte le mattine da quest'audio atroce, trovate un modo. Insomma, se ci riesce il sindaco di Milano ci riuscirà anche il presidente del Veneto, voglio ben sperare. Dategli uno strumento di comunicazione che insomma, ci consenta di sentirlo, anche perché le informazioni istituzionali sono importanti oggettivamente da dare. Cos'altro? Oh, qua un ascoltatore scrive, mi scrive: il fallimento dell'indipendentismo regionale, a intendere il federalismo, è evidente. Io, guardi, non lo so sinceramente, mi sembra un po' presto per dirlo. Se considera, per esempio, che in Germania c'è un sistema federale consolidato anche a livello sanitario e le cose, mi pare in tutta sincerità, che funzionino, Dipende da come uno gestisce e applica le cose. Se vogliamo, è anche un modo per giudicare la classe dirigente. Cioè, alla fine di questa emergenza, quando finalmente avremo chiaro che sono le regioni a comandare in gran parte nel settore della sanità, potremo noi cittadini, quando andremo alle urne, fare prendere le nostre decisioni anche su questa base e giudicare le nostre classi dirigenti, anche locali, su questioni molto importanti come questa. Oh, il MES ci arriviamo tra un attimo. Intanto c'è tutta la questione della riapertura e della riapertura, tra l'altro, delle librerie alle quali è stato dato il via libera. Siamo con Paolo Ambrosini, che è presidente dell'Associazione Librai Italiani. Ambrosini, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Senta Ambrosini, la prima cosa io gliela devo chiedere, ma come mai questa riapertura delle librerie? Cioè, non ho capito perché partire dalle librerie, oltre che dai negozi di vestiti per bambini, anche quello insomma non l'ho capita benissimo, però prego. Guardi, è una scelta che ha fatto il governo e che noi rispettiamo, così come abbiamo rispettato naturalmente la scelta sul tempo della chiusura delle librerie. Le motivazioni che ci sono alla base, perché le librerie non altre attività, altre aziende, sinceramente non glielo saprei spiegare, ma non mi sono neanche posto il problema, nel senso che per noi siamo imprenditori, noi siamo qui per fare impresa e appena ci sono e quando ci sono le condizioni per farlo, in questo momento anche con tutte le attenzioni e le sicurezze richieste, è chiaro che il nostro compito è fare impresa, sì, e aprire le nostre aziende. Senta, come stanno andando le cose, Ambrosini? Quanti vi risulta che abbiano effettivamente aperto? Perché poi c'è una questione, no, di chiusura da una parte, dall'altra parte c'è una questione di rimanere chiusi perché tanto il business non c'è, insomma. Allora, innanzitutto bisogna precisare che non in tutto il territorio nazionale i governatori hanno consentito la riapertura, perché attualmente sono 13 le regioni nelle quali è possibile aprire i nostri negozi, è stato possibile aprire i nostri negozi. La ripartenza è stata più veloce e sono stati più reattivi i nostri librai, i librai indipendenti, che si sono caricati dell'esigenza di preparare i negozi proprio sotto Pasqua, quindi hanno sacrificato Pasquetta eccetera per essere pronti già dal 14. Stimiamo dai dati che abbiamo visto, che abbiamo raccolto, che più o meno circa un 60% delle librerie dei territori, delle regioni coinvolte abbiano aperto. E un po' più lenta invece la ripresa delle catene, quelle più strutturate, più organizzate, che chiaramente hanno dei modelli organizzativi un po' più complessi, richiamare i dipendenti al lavoro sotto le feste non è semplice, poi hanno degli spazi anche talvolta più grandi da presidiare, quindi hanno bisogno anche di personale ulteriore, persone che facciano rispettare le distanze, rallenta un po' la riapertura, però stanno tutti lavorando e sono sicuro che nel giro di qualche giorno ci saranno anche delle aperture di librerie, queste catene, per cui Ambrosini, la cosa farà notizia. Sì. Ambrosini, ha senso dal punto di vista appunto del business, secondo lei, in questo momento oppure no? Allora, anzitutto noi come categoria abbiamo approcciato questa opportunità nella consapevolezza che siamo in un momento particolare e che è difficile riuscire a darsi una prospettiva economica precisa. È chiaro che viviamo comunque in una situazione ancora di costrizione, e però i primi risultati ci confortano perché vanno assolutamente oltre le più rosee aspettative. Se voi andate a vedere le rassegne stampa locali, vedete che c'è comunque entusiasmo, che c'è comunque una buona risposta dei nostri lettori, dei nostri clienti che attendevano con grande ansia la nostra riapertura, che quindi Ambrosini mi permette di dirla un po' cattiva, la gente lo può mettere nell'autocertificazione e quindi viene lì, che poi è un bene per voi, per carità, mettiamoci però anche questo, però, insomma, mettiamoci anche questo, però forse però guarda, Guardi, secondo me in realtà per i clienti che io ho visto e per quello che mi è stato anche raccontato dai colleghi, veramente c'era la parte di una parte della clientela, chiaramente l'attesa proprio della riapertura per ritornare ad un'esperienza di acquisto che è completamente diversa dal click, e quindi questo li ha riportati con gioia in libreria. Mettiamoci che questo gli ha consentito anche di allungare una passeggiata che diversamente magari si doveva fermare entro i 200 metri, adesso non so nelle varie regioni come sia, da noi adesso in Veneto è un po' più libera questa cosa, però chiaramente questo, la risposta c'è stata ed è stata assolutamente positiva da parte dei clienti. E la cosa importante poi anche da sottolineare che tutti disciplinati, tutti consapevoli che comunque ci sono delle modalità per accedere in libreria che vanno rispettate a tutela dei lavoratori, a tutela dei clienti stessi che frequentano gli spazi, e quindi non c'è bisogno di grande catechizzazione. Bene, bene, ottimo. Grazie Paolo Ambrosini, presidente dell'Associazione Librai Italiani. In bocca al lupo per questo inizio di riapertura. Il traffico. Alle 6:46 minuti e 30 secondi apriamo per un attimo il capitolo economico. Da una parte c'è tutta la questione della richiesta di liquidità che continua ad arrivare dalle aziende, partite IVA, liberi professionisti, e però, come bene ci informa il Sole 24 Ore oggi, quello che temevamo si sta realizzando. Deve essere una questione di giorni. Ma una questione di giorni in realtà non è, o meglio, sì, di giorni, ma forse 7-10 giorni per iniziare a vederne gli effetti, a vedere le cose nei conti e nelle tasche, per così dire, delle aziende, dei professionisti. A parte i famosi 600 euro, mi riferisco più alla parte relativa al passaggio dalle banche. Non facile sicuramente. È un classico del sistema italiano, una serie di rallentamenti che hanno a che fare con le norme, con la burocrazia, con l'attivazione di alcuni meccanismi. Insomma, la si è fatta un po' troppo facile anche dalle parti del governo. Sul fronte sempre economico c'è la questione del fondo salva stati, e qua siamo sul tema delle grandi divisioni all'interno della maggioranza, all'interno anche dell'opposizione, con Berlusconi che ha aperto una breccia dicendo: utilizziamoli questi fondi del fondo salva stati se sono senza condizioni e se servono per la sanità, e se il tasso è così basso, ma perché dobbiamo indebitarci noi a tassi più alti? Prendiamo questi soldi, punto e basta, sono 36-37 miliardi quanti sono. Salvini, piccato, replica. Perché sembra che sia un regalo. Io oggi leggevo le dichiarazioni di qualcuno, da Renzi a Berlusconi, che pareva che il MES fosse un regalo. Sono dei soldi a prestito che dovremo restituire con interessi e in base a precise condizioni che abbiamo visto in passato dove hanno portato la Grecia. Quindi noi preferiamo, come Lega, la proposta avanzata da Tremonti e da 101 economisti che hanno sottoscritto un appello oggi: buoni del tesoro italiani, esentasse destinati agli italiani in modo tale che la ricostruzione italiana sia in mani italiane. Sì. Non è che quello non è debito, Quello è sempre debito, sono sempre soldi che lo Stato deve restituire a un certo punto. Renzi. Noi siamo per gli Eurobond, probabilmente non arriveremo agli Eurobond, ma arriveremo al Recovery Fund. Quello che deve essere chiaro è che sta barzelletta del MES deve finire. Il MES senza condizionalità significa che ci danno 37 miliardi di euro a condizioni migliori di un qualsiasi altro tipo di prestito, e questi 37 miliardi di euro vanno ai cittadini italiani. Quindi quando vi fanno grillini e leghisti tutta la polemica sul MES, vi stanno prendendo in giro. Forse è interessante anche lo stesso Zaia, sempre con quell'audio non particolarmente buono, però a domanda precisa, adesso vedrò di ricordarmi in che trasmissione era, però insomma dice, alla fine dice non rispondo. Beh, dipende chi me li dà e per cosa me li dà da fare, cioè nel senso che risposto così non è. Glieli dà l'Europa, non le chiede niente in cambio, le dice puoi usarli per la sanità. Ma guardi, non le rispondo. Punto, nel senso che ogni risposta mi si presta polemica, siccome io ho gli ammalati. Va bene, allora io non posso che accettare questa sua non risposta. Grazie. Allora, e a chi chiede dettagli su questo, questa questione del MES con l'unica condizione di utilizzarlo per spese sanitarie o collegato all'emergenza Covid-19 è... La proposta è arrivata dall'Eurogruppo, lo dovranno decidere, ci dovranno ragionare ovviamente i capi di Stato e di Governo e poi mettere per iscritto questo, cioè al momento è così, era l'aria che tira sulla 7, Zaia. Al momento è così, cioè così sta scritto, tanto che oggi in un'intervista su un giornale il ministro francese Bruno Le Maire dice guardate che probabilmente se ne può fare un utilizzo molto più largo e sempre senza le condizioni, per condizioni intendiamo le riforme strutturali, la riforma delle pensioni, insomma tutte queste cose qua, insomma senza timore che si arrivi a uno scenario greco che poi è sempre questo quello che viene evocato. E va bene. La riapertura, ancora una volta, e il tema delle deroghe che vengono chieste dalle imprese alle prefetture, perché è dalle prefetture che devono passare queste deroghe, ossia le aziende che ritengono di dover aprire perché collegate a una filiera fondamentale o per altre ragioni, scrivono alla prefettura e dicono guardate, devo riaprire. Se la prefettura non risponde entro 30 giorni, ripartono molto semplicemente. E ieri c'è stato un po' di scontro, tanto che si calcola che siano almeno un 100.000 le aziende che sono passate da questa trafila, da questa procedura. Ieri c'è stato un po' di frizione, forse addirittura, tra il Ministero dell'Interno e le sue articolazioni territoriali, con il Ministero dell'Interno che dice dovete essere più veloci a processare queste richieste. Siamo con Antonio Giannelli, che è presidente del SIMPREF, l'associazione sindacale dei funzionari prefettizi. Giannelli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, mi sembra di capire che però le prefetture hanno un problema a processare tutto questo, sia in termini di personale e forse anche, non so, di capacità tecniche, però questo me lo dica lei. Ma guardi, ci sono due cose da dire. Innanzitutto, moltissime delle istanze che sono arrivate in tante prefetture sono state processate anche piuttosto rapidamente, le parlo soprattutto di quei casi in cui in circa due giorni sono arrivate dalle 200 alle 300 istanze. È chiaro che ci sono altre strutture dove sono arrivate in una notte 2500 istanze, e lei capirà bene che a fronte della gestione dell'emergenza complessiva che le prefetture stanno seguendo, è evidente che questa è una questione che ha richiesto un po' più di qualche giorno in più. In più, lei faceva riferimento alle carenze, tenga conto che mediamente le prefetture hanno da sempre una carenza del più del 40% di funzionari in servizio, quindi è chiaro che in questa fase la gestione complessiva può aver prodotto in qualche sede, quindi diffusamente penso che le risposte ci siano state e che quindi adesso, fra l'altro anche la procedura da seguire nell'ultima circolare del Ministero è stato chiarito peraltro come procedere, ma questo era di fatto già stato seguito, mi riferisco al rapporto con le Camere di Commercio, mi riferisco al coinvolgimento dei sindacati, quindi un qualcosa che era stato già seguito da parte di molte prefetture. Si parla, Giannelli, di 65.000 aziende partite per così dire senza permesso, ossia con il silenzio assenso. Le sembra un numero credibile? Ma guardi, io non posso darle dei numeri perché non ho un dato nazionale. Quello che posso dirle, ho fatto un'analisi con molti colleghi di molte di diverse sedi e in molti casi noi abbiamo operato sulle deroghe, cioè nel senso che ci sono stati, direi, non numeri altissimi sui divieti di prosecuzione di attività, proprio per consentire a molte aziende di effettuare attività lavorativa nel campo e nella verifica della filiera, perché tenga anche presente che si tratta di un'attività piuttosto delicata da compiere, soprattutto nella ricostruzione di codici Ateco che, ricordo a me stesso, sono anche cambiati in corso, nel senso che dopo un primo elenco, con un secondo decreto ne sono arrivati degli altri e quindi sono state riesaminate alcune istanze. Certo, e comunque questo esame riesce a procedere, ci dice lei, Giannelli, insomma. Ma sì, guardi, io penso che, considerando che si tratta di una cosa che le prefetture non hanno mai svolto, quindi in questa fase mi permetto di dirle che, oltre ai tradizionali compiti che noi svolgiamo, perché ribadisco, dietro a un controllo di polizia, dietro ad una verifica di tutti quanti gli ambiti, anche il rapporto con la sanitaria, sempre le prefetture ci sono, insomma, che sono stati in prima linea, direi, anche in questa occasione. Aggiungere di fretta, perché di questo noi eravamo ben consci di dover procedere rapidamente, e lo siamo ancora, perché il nuovo decreto ha previsto il rapporto anche con i presidenti di regione per questo tipo di decisioni, e penso, da quello che comprendo, che sarà un'altra delle competenze essenziali per aiutare a capire come ripartire al paese. La ringrazio, grazie Antonio Giannelli, presidente del SIMPREF, l'associazione sindacale dei funzionari prefettizi. Cosa ancora? Allora, va bene, dei morti nelle... si fa per dire, dei morti nelle RSA, abbiamo detto, insomma, ci sono una trentina di procure che ci stanno lavorando, non solamente in Lombardia, va detto molto chiaramente questo, perché sennò poi emerge che solo in Lombardia è successo. In Lombardia c'è stata la situazione più grave dal punto di vista Covid-19, forse sono state commesse delle omissioni o degli errori veri e propri per quanto riguarda la gestione delle residenze per anziani, e questo andrà valutato e andrà valutato nei prossimi giorni, ma la strage silenziosa è ovunque, o quasi ovunque. La questione del tracciamento dei contagiati, la sottosegretaria della Salute Zampa dice i tracciamenti saranno attivi da maggio. Partirà a maggio e sarà su base volontaria. So, per quello che il professor Ricciardi mi ha autorizzato a comunicare, che il lavoro è molto avanti. Se siamo capaci di spiegare agli italiani che l'app li rende più liberi, no, e che sarà così, credo che la risposta non mancherà, e anche più sicuri, perché in realtà tu verrai a sapere immediatamente se sei stato a contatto con uno che risulta purtroppo contagiato. Sì, insomma, diciamo, prima ti servirà sapere chi è contagiato, e il grande tema ci pare questo, prima di tracciare i contatti dei contagiati. Non è una critica alla Zampa, cioè sono cose oggettive. Tra le altre cose, la rassegna stampa tra poco, tutta la parte politica ovviamente, le inchieste sulla RSA, la parte economica, la liquidità, ma anche la setta dei cappuccini segreti. A tra poco.